Capitolo 25. Matthew insiste sulle maniche a sbuffo. Matthew stava passando un pessimo quarto d'ora. Era il tardo pomeriggio di un giorno di dicembre, grigio e freddo, e lui era appena rientrato in cucina. Si era seduto nell'angolo accanto alla cassa di legno e stava per togliersi i pesanti stivali da lavoro, senza sapere che Anna e un gruppo di sue compagne si trovavano in soggiorno a provare la regina delle fate. Di colpo, le ragazzine, tutte insieme, attraversarono l'ingresso e irruppero in cucina ridendo e chiacchierando. Nessuna si accorse di Matthew, il quale, schivo di natura, si rintanò nell'ombra, uno stivale in una mano e il levastivali nell'altra, e rimase a osservarle, intimorito, per il suddetto quarto d'ora, mentre si infilavano cappelli e giacche, senza smettere un minuto di discutere delle scenette e dello spettacolo. Anna era al centro del gruppo. Le brillavano gli occhi ed era elettrizzata come le sue amiche, eppure, tutto d'un tratto, Matthew si rese conto che c'era in lei qualcosa di diverso. Ciò che colpì e preoccupò Matthew fu che quella differenza non aveva motivo di essere. Anna aveva un viso più luminoso, occhi più grandi e sognanti e lineamenti più delicati delle compagne. Perfino lui, per quanto chiuso, timido e distratto, aveva imparato a notare certi dettagli, ma ciò che lo disturbava non aveva niente a che vedere con tutto ciò. Cosa poteva essere allora? Per un bel po', Matthew rimase a rimuginare su quella domanda, anche dopo che le ragazzine se ne furono andate lungo il vialetto ghiacciato, tenendosi a braccetto per non scivolare, e Anna si fu messa a fare i compiti. Non era il caso di parlarne con la sorella. Sapeva che Marilla avrebbe sbuffato con la sua solita aria esasperata, per poi commentare che l'unica differenza tra Anna e le sue compagne era che almeno ogni tanto quelle tenevano a freno la lingua, mentre lei non lo faceva mai. A quella risposta, pensava Matthew, non gli sarebbe servita a niente. Quella sera, con gran fastidio di Marilla, aveva addirittura acceso la pipa per ragionare meglio sulla faccenda. Dopo 2 ore di pipate e profonda meditazione, Matthew Cuthbert trovò la soluzione al suo problema. La differenza erano gli abiti. Anna non era vestita come le altre ragazze. Più elucubrava, più si convinceva che Anna non fosse mai stata vestita come le altre bambine, se non altro non da quando era arrivata a Green Gables. Marilla le cuciva sempre abiti scuri, semplicissimi, tutti tagliati sullo stesso cartamodello, senza la minima variazione. Matthew era senza ombra di dubbio ignorante sui possibili tagli degli abiti femminili e inoltre sapeva a malapena dell'esistenza di una cosa definita moda. Però aveva l'assoluta certezza che le maniche dei vestiti di Anna avessero una forma diversa da quelle delle altre ragazzine. Ripensò alle ragazzine che aveva visto insieme a lei quel pomeriggio. Tutte indossavano vestiti vivaci dai corpetti rossi, blu, rosa e bianchi. Chissà perché Marilla vestiva sempre Anna con abiti così scialbi e spenti, si disse Matthew perplesso. Per carità, di sicuro aveva ragione lei. Marilla sapeva cosa era meglio fare e dal primo momento era stata l'indiscussa responsabile dell'educazione della bambina. Evidentemente esisteva un qualche principio da rispettare, di certo saggio e prudente, anche se a suo parere incomprensibile. In ogni caso, non avrebbe causato danni alla sua formazione concedere ad Anna di possedere almeno un abito un po' più frivolo, grazioso come quelli che Diana Barry portava ogni giorno della settimana. Perciò Matthew decise che gliene avrebbe regalato uno. Un dono non poteva essere considerato un'interferenza inopportuna. Mancava poco a Natale, solo un paio di settimane, e un bel vestitino nuovo era perfetto come regalo. Con un sospiro soddisfatto, l'uomo ripose la pipa e se ne andò a dormire, mentre sua sorella si affrettava a spalancare porte e finestre per cambiare aria. Già il giorno dopo, verso sera, Matthew andò a Carmody per comprare il suo regalo per Anna, risoluto ad affrontare la questione di petto e a concluderla. Sapeva già che non sarebbe stato un compito da poco per lui. C'erano cose che il vecchio contadino era capace di acquistare in assoluta tranquillità, dimostrandosi anche piuttosto abile nella trattativa. Però era certo che nel caso di un vestito, e da ragazzina per giunta, sarebbe stato nelle mani del venditore. Ci pensò per tutto il viaggio e alla fine decise di entrare nell'emporio di Samuel Lawson anziché in quello di William Blair. I Cuthbert si servivano sempre da William Blair, a dire il vero. Era quasi una questione di principio, come l'essere presbiteriani o votare sempre per i conservatori. Purtroppo, però, spesso al banco a servire i clienti c'erano le due figlie di William Blair e Matthew ne aveva un sacro terrore. Se la cavava a contrattare con le due ragazze quando poteva indicare esattamente ciò che intendeva acquistare, perché l'aveva già deciso prima. Tuttavia, per una questione come il vestito di Anna, che prevedeva una serie di spiegazioni particolareggiate, voleva essere assolutamente certo di trovare un uomo dietro il bancone. Quindi sarebbe andato da Lawson, dove sarebbe stato servito da Samuel in persona o dal figlio. Il povero Matthew non aveva idea che Samuel di recente avesse ampliato il suo giro d'affari e per questo aveva assunto una commessa. Era la nipote della moglie ed era una ragazza piuttosto vistosa, con una gran chioma acconciata alla Pompadour, due occhioni castani sempre sgranati e un generoso sorriso pieno di fascino. Portava abiti dai colori vivaci e intorno ai polsi aveva un gran numero di bracciali a cerchio che scintillavano e tintinnavano a ogni movimento. Appena se la trovò di fronte, Matthew andò in confusione. Tutti quei braccialetti furono il colpo di grazia e il poveretto quasi perse l'uso della parola. Buonasera, signor Cuthbert. Cosa le serve? Chiese la fanciulla. Sollecita. La signorina Lucilla Harris, tamburellando sul ripiano del bancone con le dita di entrambe le mani. Beh, ecco, per caso. Avrebbe un, ecco, un, beh, un rastrello, farfugliò lui. La richiesta di un rastrello a metà dicembre lasciò ovviamente allibita la signorina Harris. Credo che ne siano rimasti un paio, rispose, ma sono di sopra, in magazzino. Se mi aspetta, salgo a vedere. Durante la sua assenza, Matthew cercò di farsi forza. Doveva riprovare. La commessa tornò con il rastrello e si affrettò a domandare, con la dovuta gentilezza e cordialità, «Le serve altro, signor Cuthbert?» Matthew prese il coraggio a due mani e replicò, «Beh, ora che me lo chiede, avrei bisogno di, ecco, di prendere, cioè, vorrei vedere un, mi occorrono un po' di semi di erba medica». Lucilla Harris aveva sentito dire che Matthew Cuthbert era un tipo strano, ma a quel punto giunse alla conclusione che era suonato come una campana. Li teniamo solo in primavera, mi spiace, spiegò un po' fredda. In questo momento non ne abbiamo. Oh, certo sì, ha ragione, balbettò Matthew sull'orlo della disperazione, afferrando il rastrello e precipitandosi verso la porta. Giunto sulla soglia, si rese conto di non aver pagato e tornò indietro, sempre più mortificato, mentre la signorina Harris contava le monete del resto, fece appello a tutte le sue forze per un ultimo disperato tentativo. Ecco, ora, se non è troppo disturbo, vorrei anche, vorrei vedere un po' di zucchero. Bianco o di canna? Domandò la commessa paziente. Beh, ecco. Di canna, rispose Matthew con un filo di voce. Ce n'è un barile là in fondo, indicò Lucilla, agitando i braccialetti. È l'unico tipo che abbiamo. Ne prendo 20 libbre, disse l'uomo con la fronte imperlata di sudore. Il povero Matthew si riprese dal trauma solo a metà del tragitto verso casa. Era stata un'esperienza terrificante, ma gli stava bene, si disse, perché era stato così stupido da pretendere di servirsi presso un negozio che non conosceva bene. Una volta a Green Gables nascose il rastrello nel capanno degli attrezzi, ma fu costretto a portare dentro lo zucchero per consegnarlo a Marilla. Zucchero di canna? Esclamò lei. Ma come ti è saltato in mente di comprarne così tanto? Lo sai che non lo uso mai, tranne che per la colazione del bracciante e qualche volta per il pan dolce. Ma Jerry se n'è andato ed è un pezzo che non faccio più quella torta. Per di più questo zucchero non è neanche di buona qualità. È grezzo, è troppo scuro. William Blair non tiene mai zucchero simile. ecco, io ho pensato che potesse tornare utile prima o poi, bofonchiò Matthew, dandosi alla fuga. Quando si soffermò di nuovo a riflettere sul problema, decise che quella situazione poteva essere affrontata solo da una donna. Rivolgersi a sua sorella Marilla era fuori discussione, avrebbe bocciato immediatamente il suo progetto, non c'era il minimo dubbio. Quindi gli restava soltanto la signora Linde, l'unica donna a cui si sarebbe azzardato a chiedere un consiglio in tutta Avonlea. Quindi andò da lei e in un lampo quella brava donna lo alleggerì di tutti i suoi tormenti. Aiutarla a scegliere un vestito per Anna? Ben volentieri, Matthew. Domani devo andare a Carmody, ci penso io, non si preoccupi. Aveva in mente qualcosa di particolare? No? Va bene, allora sceglierò secondo il mio gusto. Mi sembra che un bel marrone caldo, un color cioccolato, possa essere adatto alla bambina. E William Blair ha appena messo in vendita un tessuto misto lana e seta che è una delizia. A proposito, vuole che pensi io a cucirlo? Se lo facesse Marilla, Anna potrebbe accorgersene e la sorpresa sarebbe rovinata. Davvero, non c'è problema, lo faccio io. No, no, non è disturbo, ma si figuri, mi piace cucire. E per le prove c'è mia nipote Jenny, ha proprio la stessa corporatura di Anna. Sono identiche. Beh, ecco, la ringrazio molto, borbottò l'uomo, e non so, ma mi piacerebbe che, ecco, mi sembra che adesso le maniche si facciano in modo diverso da come usava prima. Se non è chiedere troppo, mi piacerebbe che fossero fatte come usano adesso. A sbuffo, intende? Ma certo, non si preoccupi, Matthew. Il vestito sarà all'ultima moda. Lo rassicurò la signora Linde, la quale, appena Matthew se ne fu andato, aggiunse a mezza voce: Finalmente vedremo quella povera bambina con qualcosa di decente addosso. Marilla la veste in un modo a dir poco ridicolo e mi sono dovuta mordere la lingua almeno una decina di volte per evitare di dirglielo in faccia. Ma mi sono trattenuta perché è chiaro che lei non accetta consigli da nessuno ed è convinta di saperne più di me sull'educazione dei bambini, anche se è solo una vecchia zitella. È sempre la stessa storia. Chi ha figli sa benissimo che non si possono allevare tutti allo stesso modo, perché non esiste un metodo valido per tutti. Invece, le persone che di figli non ne hanno pensano che sia tutto facile e lineare come in matematica, dove basta incolonnare bene i numeri e il risultato della somma è giusto. Il fatto è che carne e sangue non rispettano le regole dell'aritmetica, e questo è l'errore di Marilla Cuthbert. Scommetto che vestendola in quel modo spera di far diventare Anna una ragazza semplice e modesta, mentre è molto probabile che la faccia crescere invidiosa e insoddisfatta. Figurarsi se la bambina non si rende conto della differenza tra i suoi vestiti e quelli delle sue amiche. Ma certo non avrei mai pensato che se ne accorgesse Matthew. Ha vegetato per più di 60 anni, ma finalmente si sta svegliando. Nelle 2 settimane seguenti, Marilla intuì che suo fratello stava architettando qualcosa, ma non scoprì nulla fino alla vigilia di Natale, quando la signora Linde consegnò a Green Gables il vestito nuovo. Tutto sommato reagì bene alla notizia, anche se probabilmente non credette nemmeno per un attimo alla diplomatica spiegazione della vicina, che le raccontò di aver cucito lei il vestito perché Matthew temeva che Anna se ne sarebbe accorta subito se lo avesse confezionato Marilla. Ah, è per questo che da 2 settimane Matthew ha sempre un'aria misteriosa e continua a sorridere fra sé, eh? Commentò con tono piuttosto tollerante ma leggermente stizzita. L'avevo capito che stava macchinando qualche assurdità. Certo, non mi pare proprio che Anna avesse bisogno di altri vestiti. Gliene ho cuciti 3 quest'anno, con bei tessuti resistenti, comodi e caldi. Ah, regalargliene un quarto è un'inutile stramberia. In quelle maniche c'è abbastanza stoffa da farci un corpetto, poco ma sicuro. In questo modo Matthew, continuò rivolgendosi al fratello, non fai che aumentare la sua vanità. E Anna è già vanitosa come un pavone. Comunque mi auguro che finalmente sarà soddisfatta, visto che smania per quelle maniche a sbuffo da quando sono diventate di moda, anche se ne ha parlato una sola volta e non l'ha più ripetuto. Questi sbuffi sono sempre più voluminosi e ridicoli. Ormai sono talmente gonfi che sembrano palloni. Di questo passo l'anno prossimo chi porterà maniche di questo tipo dovrà mettersi di profilo per passare dalle porte. Il mattino di Natale il mondo era ammantato di bianco. Il mese di dicembre era stato davvero mite e tutti si aspettavano un Natale asciutto, ma quella notte era caduta una spolverata di neve sufficiente a trasformare Avonlea. Anna sbirciò con occhi deliziati dalla finestra appannata della sua camera. Nella foresta stregata gli abeti sembravano coperti di piume. Era una visione meravigliosa. Le betulle e i ciliegi selvatici erano profilati di fili di perle. I solchi nei campi arati erano fossette innevate e nell'aria si sentiva un profumo fragrante che rallegrava lo spirito. Anna scese al pian terreno cantando e la sua voce risuonò per tutta Green Gables. «Buon Natale, Marilla! Buon Natale, Matthew! Non vi sembra un Natale bellissimo? Oh, come sono contenta che ci sia la neve! Se non fosse così bianco, non sembrerebbe nemmeno Natale, no? Non mi piace il Natale senza neve. In questa stagione i prati non sono neanche verdi, sono tutti grigi e marrone sbiadito. Chissà perché tanti dicono che sono verdi, ma Matthew, questo sarebbe per me? Oh, Matthew!» Pieno d'imbarazzo, l'uomo aveva sfilato l'abito dall'involucro di carta velina e lo reggeva tra le braccia, con uno sguardo di rimprovero alla sorella che, con aria sdegnosa, fingeva di riempire la teiera, ma in realtà, curiosa, seguiva la scena con la coda dell'occhio. Anna prese il vestito e lo rimirò in tutti i suoi dettagli senza dire una parola. Oh, era graziosissimo! Il morbido tessuto color cioccolato era lucido grazie alla seta. La gonna era arricchita da una serie di volanti plissé, il corpetto all'ultima moda sfoggiava un'elaborata serie di piegoline e un profilo di pizzo dava leggiadria al colletto. Ma le maniche, oh, quelle maniche erano il glorioso coronamento dell'opera. Polsi aderenti che si allungavano fino al gomito e subito sopra due meravigliosi sbuffi divisi da una sfilza di nastri e fiocchi in seta marrone. «Il tuo regalo di Natale, Anna», le disse timidamente Matthew. «Ma non ti piace?» «Beh, ecco, ecco, su, su, su, adesso!» Di colpo gli occhi della ragazzina si erano riempiti di lacrime. «Se mi piace!» «Oh, Matthew!» Anna appoggiò l'abito su una sedia e unì le mani. «Matthew, è assolutamente incantevole! Oh, non potrò mai ringraziarti abbastanza! Guarda che maniche! Oh, mi sembra un sogno!» «Basta adesso, facciamo colazione, su!» la interruppe Marilla. «Anna, secondo me non avevi bisogno di questo vestito, ma visto che Matthew te l'ha regalato, cerca di averne cura. Ah, c'è anche un fiocco per i capelli che ha lasciato per te la signora Linde. È color cioccolato intonato al vestito. Forza, vieni a tavola ora!» «Oh, non so come potrò mangiare», disse Anna con voce rapita. «Mangiare è un'azione talmente banale in un momento emozionante come questo. Preferirei lustrarmi gli occhi guardando il mio bel vestito. Sono felice che le maniche a sbuffo siano ancora attuali. Sentivo che non mi sarei data pace se fossero passate di moda senza che avessi avuto l'occasione di indossarle. Capite? Non mi sarei più sentita soddisfatta di niente. Comunque la signora Linde è stata davvero carina a regalarmi il fiocco. A questo punto mi toccherà per forza diventare brava. In momenti come questo mi spiace di non essere una bambina modello. Mi propongo sempre di migliorare. Anche se è così difficile non recedere dalle proprie decisioni quando si è tentati in continuazione. D'ora in poi mi impegnerò con tutte le mie forze, è una promessa». Quando la banale colazione fu terminata, sul ponticello di tronchi in fondo alla valletta apparve Diana, piccola e allegra nel cappotto con la mantellina rossa. Anna le corse incontro giù per il pendio. «Buon Natale, Diana! Sapessi, è un Natale meraviglioso! Devo farti vedere una cosa stupenda! Matthew mi ha regalato un vestito! Oh, adorabile! A certe maniche non avrei potuto immaginarle più belle!» «Io ho un'altra cosa per te», le disse Diana senza fiato. «Guarda in questa scatola! Zia Josephine ci ha spedito un grosso pacco stracolmo di roba, e questa è per te! L'avrei portata ieri sera, ma è arrivata che era già buio pesto e attraversare la foresta stregata, beh, non mi sentivo tranquilla». Anna aprì la scatola. La prima cosa che vide fu un biglietto. «Per la piccola Anna, buon Natale». La seconda, un paio di scarpine in capretto, molto eleganti con la mascherina ricamata di perline, due fibbie lucidissime e fiocchi di seta. Oh, Diana, disse con un filo di voce, questo è troppo, può solo essere un sogno. Più che un sogno, mi sembra un regalo provvidenziale, ribatté l'amica. Così non dovrai più prendere in prestito le scarpe di Ryubi, il che è una vera fortuna perché ti stanno grandi e sarebbe orribile vedere una fatta che ciabatta in giro per il palco. Sai quanto riderebbe Josie Pye? A proposito, sai che l'altro ieri sera, tornando dalle prove, Rob Wright ha accompagnato a casa Gertie Pye? Si è mai sentita una cosa del genere? Quel giorno tutti gli scolari di Avonlea erano in grande agitazione perché nel pomeriggio avrebbero allestito la sala, subito prima della prova generale. Quella sera lo spettacolo fu un successo straordinario. La piccola sala era affollata e tutti se la cavarono a meraviglia, anche se fu Anna in particolare, la stella della serata, e neppure gli invidiosi, ovvero Josie Pye, furono tanto sfrontati da negarlo. Non è stata una serata strepitosa? Sospirò la ragazzina alla fine mentre lei e Diana tornavano a casa sotto un magnifico cielo stellato. Tutto ha funzionato in modo ineccepibile, convenne l'amica, sempre pratica. Dobbiamo aver incassato come minimo $10. In ogni caso, il pastore Alan manderà un resoconto preciso ai giornali di Charlottetown. Oh, Diana, secondo te vedremo sul serio i nostri nomi stampati sul giornale? La sola idea mi fa tremare di gioia. Il tuo assolo è stato davvero bello, Diana. Quando ti hanno chiesto il bis, mi sono sentita così orgogliosa di te e ho pensato questo onore viene tributato alla mia amica del cuore. Sì, però quando hai recitato tu, gli applausi hanno fatto quasi crollare il soffitto. Il brano più triste era a dir poco splendido. Oh, sapessi com'ero nervosa! Quando il pastore Alan ha annunciato il mio nome, non so nemmeno come ho fatto a salire sul palco. Guarda, mi sentivo un milione di occhi puntati addosso, che mi attraversavano come se fossi trasparente. E per un tragico istante ho avuto la certezza di non farcela. Poi, però, ho pensato alle mie deliziose maniche a sbuffo e mi sono fatta coraggio. Dovevo assolutamente dimostrare di meritarmele quelle maniche. Non credi, Diana? Così ho cominciato. Sentivo la mia voce come se provenisse da una distanza infinita. Mi sembrava di essere un pappagallo. È stata una fortuna che abbia fatto tutte quelle prove sui mansarda perché altrimenti non sarei mai riuscita ad arrivare fino alla fine. Secondo te sono stata brava nei lamenti? Oh, certo, i tuoi gemiti erano adorabili, assicurò Diana. Quando sono tornata al mio posto ho visto la signora Sloane che si asciugava le lacrime. È stato emozionante perché mi sono resa conto che le avevo toccato il cuore. È magnifico partecipare a uno spettacolo, non trovi? Sì, per me è stato un avvenimento memorabile. E non era bello il dialogo recitato dai ragazzi? Le chiese Diana. Gilbert Blythe è stato bravissimo. Sai, Anna, secondo me sei troppo, troppo crudele con lui. E senti questa, quando sei corsa dietro le quinte, dopo la scena delle fate, ti è caduta una rosa dai capelli e io ho visto con i miei occhi Gil raccoglierla e infilarsela nel taschino della giacca. Ecco, dato che sei tanto romantica, questo gesto dovrebbe farti piacere. Non mi importa di cosa fa quello, ribatté Anna brusca. Non spreco neanche uno dei miei pensieri per lui, Diana. Quella sera, Marilla e Matthew, che non assistevano a uno spettacolo da almeno 20 anni, dopo che Anna fu andata a dormire, si fermarono in cucina accanto al fuoco ancora per un po'. Beh, ecco, mi pare che la nostra Anna sia stata brava come tutti gli altri, commentò Matthew fiero. Sì, è vero, ammise la sorella. È una ragazzina molto intelligente e oggi era anche particolarmente carina. Sai bene che non ero d'accordo con quest'idea dello spettacolo, ma devo dire che mi sono ricreduta. Non c'è niente di male organizzarne uno una volta ogni tanto. Comunque, stasera sono stata davvero orgogliosa di Anna, anche se è meglio non dirglielo, secondo me. Beh, ecco, sono stato molto orgoglioso anch'io, e gliel'ho pure detto prima che salisse in camera, sottolineò Matthew. Sai, Marilla, credo che tra un po' dovremo pensare al suo futuro. Fra un po' la scuola di Avonlea non basterà più. Ah, il tempo per riflettere bene c'è, ribatté Marilla. In fondo a marzo Anna compie solo 13 anni, anche se stasera mi sono resa conto di quanto è cresciuta. Il vestito che le ha fatto la signora Linde è un po' lungo, la fa sembrare più alta. Quanto alla scuola, Anna impara con facilità e penso che la cosa migliore a un certo punto sarà mandarla a studiare alla Queen's Academy, ma se ne parla tra un paio d'anni. Beh, ecco. Intanto conviene cominciare a pensarci, concluse Matthew. Su queste cose è sempre meglio riflettere bene. Capitolo 26. Si fonda il club letterario. Tornare alla monotonia del quotidiano fu difficile per i ragazzi di Avonlea. Anna, in particolare, trovava ogni cosa banale, noiosa, inutile. Dopo che per settimane il suo spirito si era abbeverato di esaltazione ed entusiasmo, come poteva tornare alla placida tranquillità degli antichi piaceri dei giorni che avevano preceduto lo spettacolo? All'inizio, confessò all'amica, temette di non farcela. Oh, Diana, la vita non potrà mai più essere la stessa dei tempi andati, ne sono assolutamente convinta, disse sconsolata, come se parlasse di mezzo secolo prima. Magari tra un po' riuscirò ad abituarmi, ma temo sul serio che partecipare a uno spettacolo tolga la capacità di vivere una vita normale. Forse è questo il motivo per cui Marilla non approvava l'idea. È una donna così razionale. Certo, essere dotati di una certa dose di buon senso di sicuro è positivo, però non credo che vorrei diventare una persona troppo sensata. Non c'è neppure un pizzico di romanticismo nel buon senso. La signora Linde dice che non c'è pericolo che mi capiti, ma non si sa mai, ti pare? In questo momento sento che, con gli anni, un po' alla volta, potrei ancora diventare una ragazza come si deve. Forse però è solo stanchezza. Ieri notte non riuscivo proprio ad addormentarmi e me ne sono rimasta a letto, sveglia, a ripensare allo spettacolo dal primo all'ultimo istante. È proprio questa la cosa più bella, quando si vivono momenti così speciali. Il piacere di ricordarli è impagabile. Poco per volta, però, gli scolari di Avonlea tornarono alla vita di tutti i giorni. Lo spettacolo aveva creato anche qualche problema. Per esempio, Emma White e Ruby Gillis non si sedettero più allo stesso banco. Avevano litigato per decidere chi dovesse salire per prima sul palco. Così, un'amicizia affettuosa che durava da 3 anni era finita in briciole. Josie Pye e Julia Bell, invece, non si rivolsero la parola per 3 mesi, perché Josie aveva osato dire a Bessie Wright che l'inchino fatto da Julia, dopo che si era alzata per recitare la sua parte, le aveva fatto venire in mente un pollo che agitava la testa. E Bessie era corsa, ha riferito a Julia, che naturalmente si era offesa. Inoltre, nessuno dei ragazzi Sloane aveva più rapporti con nessuno dei Bell, perché questi avevano detto e ripetuto che secondo loro gli Sloane avevano avuto ruoli troppo importanti nello spettacolo e gli Sloane avevano ribattuto che i Bell non erano stati nemmeno capaci di fare decentemente quel poco che gli era toccato. Per finire, Charlie Sloane fece a botte con Moody Spurgeon Macpherson, il quale aveva detto che quando recitava Anna Shirley si dava un mucchio di arie. Moody le prese di santa ragione e per questo sua sorella Ella May non parlò più con Anna per il resto dell'inverno. A parte questi piccoli attriti, il lavoro scolastico nel piccolo regno della signorina Stacy proseguì tranquillo e regolare. Le settimane invernali trascorsero in un lampo. Fu una stagione insolitamente dolce. Nevicò pochissimo, tanto che Anna e Diana poterono andare quasi sempre a scuola percorrendo il viottolo delle betulle. Il giorno del compleanno di Anna saltellavano lungo il sentiero chiacchierando fitto fitto e, nello stesso tempo, tenendo occhi e orecchie ben aperti perché la maestra aveva informato la classe che presto avrebbero eseguito il tema una passeggiata invernale nel bosco, perciò dovevano cominciare a guardarsi intorno. Oh, Diana, oggi compio 13 anni, osservò Anna come se faticasse a crederci. Mi sembra impossibile. Stento ancora a credere di averne più di 10. Figurati, quando mi sono svegliata stamattina ho immaginato che tutto sarebbe stato diverso. Tu hai 13 anni già da un mese, perciò Immagino che per te non sia più questa gran novità. A me, invece, la vita oggi sembra decisamente più interessante. Ancora 2 anni e sarò grande sul serio. È già un sollievo pensare che finalmente potrò usare parole difficili senza che tutti ridano di me e mi considerino strana. Ruby Gillis dice che appena compie 15 anni vuole trovarsi un fidanzato, disse Diana. Ruby Gillis ha in mente solo i fidanzati, commentò Anna sdegnosa. Quando qualcuno scrive il suo nome sul muro insieme a quello di un ragazzo, lei sembra arrabbiata, ma in realtà è solo una finta. Anche se temo che il mio sia un giudizio poco caritatevole. La signora Allan dice che non dovremmo mai giudicare gli altri, ma a volte certi pensieri ti sfuggono senza volere, non ti pare? Per esempio, non riesco a nominare Josie Pye senza fare un commento poco caritatevole. Per questo mi sforzo di non parlare mai di lei. Magari ci hai fatto caso. Mi sforzo il più possibile di imitare la signora Allan, che mi sembra perfetta. E il pastore la pensa come me. La signora Linde ripete sempre che venera la terra su cui cammina la moglie e che secondo lei non è conveniente che un ministro della Chiesa nutra tanto amore per un essere umano. D'altronde, Diana, io credo che anche i pastori siano uomini. Avranno le loro debolezze come tutti noi, no? Domenica pomeriggio ho giusto avuto una conversazione interessantissima con la signora Allan. La domenica è il giorno ideale, sai, per parlare di certi argomenti e le debolezze sono uno di quelli. La mia debolezza, per esempio, è lasciarmi sempre trascinare dalla fantasia e dimenticare i miei doveri. Mi sto sforzando in tutti i modi per correggermi e adesso che ho compiuto 13 anni magari ci riuscirò. Tra 4 anni potremo raccogliere i capelli, disse Diana. Alice Bell ha solo 16 anni e già li tira su, ma a me sembra ridicola. Io aspetterò finché ne avrò 17 compiuti. Se avessi il naso storto come quello di Alice Bell, intervenne Anna, non lo farei. Ma ecco, vedi. No, non dirò ciò che stavo per dire, perché era un commento decisamente poco caritatevole. Per giunta, stava per scapparmi un paragone con il mio naso e questa è vanità pura e semplice. Da quando ho ricevuto quel complimento, penso un po' troppo al mio naso. D'altronde per me è veramente un conforto e un sollievo. Oh, Diana, guarda, un coniglio! Dobbiamo assolutamente ricordarcelo per il tema sul bosco. Sai, secondo me i boschi sono bellissimi d'estate, ma anche d'inverno. Sono così bianchi e silenziosi, quasi stessero dormendo e facessero soltanto bei sogni. Non mi dispiace l'idea di scrivere quel tema, sospirò Diana. Descrivere i boschi non mi sarà troppo difficile. Invece la traccia che la maestra ci ha dato per lunedì non mi piace proprio. Come le è venuto in mente di farci scrivere una storia inventata da noi? Perché? È facilissimo. Sarà facile per te che hai fantasia da vendere, ribatté l'amica. Ma se fossi nata senza, cosa faresti? Scommetto che hai già finito di scriverla quella storia, eh? Anna fece segno di sì con la testa, cercando di nascondere il proprio compiacimento, senza riuscirci. Sì, l'ho scritta lunedì sera. L'ho intitolata «Il rivale geloso, ovvero insieme fino alla morte». L'ho letta subito a Marilla, ma naturalmente lei ha commentato che erano tutte scemenze. Poi l'ho letta anche a Matthew e lui ha detto che andava bene. Questo è il genere di critica che mi piace. Comunque è una storia sentimentale, molto triste. Figurati che mentre scrivevo ho pianto, come una fontana, per tutto il tempo. La storia racconta di due bellissime fanciule, Cordelia Montmorency e Geraldine Seymour, che vivono nello stesso villaggio e si vogliono bene come sorelle. Cordelia ha splendidi capelli scuri come la notte, occhi luminosi e languidi. Geraldine invece ha i capelli d'oro e occhi di un viola scuro vellutato. «Sai che non conosco nessuno che abbia gli occhi viola?» osservò Diana, dubbiosa. «Neppure io, infatti, me li sono inventati. Volevo una caratteristica particolare, fuori dal comune. Geraldine ha anche la fronte d'alabastro. Perché finalmente ho scoperto che cos'è l'alabastro. Questo è uno dei vantaggi di avere 13 anni. Sai molte più cose di quando ne avevi solo 12. Beh, e cosa succede a Cordelia e Geraldine? Chiese Diana, che cominciava a essere curiosa. Le due amiche crescono insieme e diventano sempre più belle fino al sedicesimo compleanno. A quel punto arriva nel loro villaggio Bertram de Vere, che si innamora della biondissima Geraldine. Un giorno un cavallo imbizzarrito sta per trascinarla via con tutta la carrozza e il giovane le salva la vita. Geraldine gli sviene tra le braccia e il prode cavaliere la trasporta per 3 miglia, perché ovviamente nell'incidente la carrozza si è fracassata. Devo dire che ho trovato piuttosto difficile immaginare la proposta di matrimonio perché non avevo esempi a cui ispirarmi. Però mi sono informata da Ruby Gillis perché con tutte quelle sorelle sposate pensavo che fosse un'autorità in materia. Ma Ruby mi ha detto che era nascosta nella dispensa quando Malcolm Andrews ha chiesto la mano di sua sorella Susan. Secondo lei Malcolm ha comunicato a Susan che suo padre gli aveva intestato una fattoria e poi ha aggiunto: Senti, Gioia, ho pensato che potremmo sposarci quest'autunno, che te ne pare? E Susan gli ha risposto: Sì, no, non so, beh, devo pensarci. Detto fatto, un attimo dopo erano fidanzati. Però una proposta del genere non mi sembrava abbastanza romantica, così alla fine me ne sono inventata un'altra, facendo del mio meglio. Ho usato un linguaggio molto poetico e fiorito. Bertram si inginocchia davanti a lei, anche se Ruby Gillis dice che al giorno d'oggi non lo fa più nessuno, e Geraldine accetta la proposta con un discorso lungo una pagina. Quella parte mi è costata una bella fatica, l'ho riscritta 5 volte e la considero un piccolo capolavoro. Bertram dona alla sua bella un anello di diamanti e una collana di rubini e le promette di portarla in viaggio di nozze in Europa perché lui è immensamente ricco. Ma poi, purtroppo, le ombre più cupe cominciano a rannuvolare il loro destino, perché anche Cordelia, in gran segreto, è innamorata di Bertram e si infuria quando Geraldine le racconta del fidanzamento e le mostra l'anello di diamanti e la collana. Di colpo, l'affetto di una vita per Geraldine si trasforma in odio e giura che quel matrimonio non si farà, perché lei non le permetterà mai di sposare Bertram. Però sta zitta e continua a fingersi amica di Geraldine. Una sera le due ragazze si trovano su un ponte che sovrasta un torrente molto impetuoso e pensando che intorno non ci sia nessuno, Cordelia spinge Geraldine oltre il parapetto con una risata malvagia. Ma Bertram vede la scena e si tuffa nel torrente, esclamando: Ti salverò, mia impareggiabile Geraldine! Ma disgraziatamente il poverino si è dimenticato che non sa nuotare e i due annegano insieme, stretti in un ultimo abbraccio. I loro corpi vengono spinti a riva poco dopo, i due innamorati vengono sepolti nella stessa tomba, con una cerimonia imponente e molto solenne. Per quanto mi riguarda, è molto più romantico concludere una storia d'amore con un funerale che con un matrimonio. Quanto a Cordelia, il rimorso di coscienza la fa impazzire e la fanciulla finisce in manicomio. Mi sembrava che fosse un castigo abbastanza poetico per il suo crimine, no? Oh, che meraviglia! Sospirò Diana, che come critica letteraria apparteneva alla stessa scuola di Matthew. Non so come fai a inventare storie così appassionanti, Anna. Vorrei avere una fantasia come la tua. Beh, l'avresti se la coltivassi, la incoraggiò Anna. Oh, Diana, mi è appena venuta un'idea. Fondiamo un club letterario e scriviamo storie per esercitarci. Io ti aiuterò finché non avrai imparato a usare l'immaginazione per inventarle da sola. Perché l'immaginazione va coltivata, sai? Lo dice sempre anche la signorina Stacy. Solo che bisogna farlo nel modo giusto. Per esempio, le ho raccontato della foresta stregata e lei mi ha detto che in quel caso abbiamo esagerato. Fu così che nacque il club letterario. I primi membri furono Diana e Anna, ma presto la cerchia si allargò ed entrarono nel club Jane Andrews, Ruby Gillis e un paio di altre ragazzine che volevano tanto coltivare la propria immaginazione. I maschi non furono ammessi, anche se Ruby Gillis sosteneva che la loro presenza avrebbe reso le riunioni molto più emozionanti. Ogni membro del club doveva scrivere una storia alla settimana. È incredibilmente interessante, raccontò Anna a Marilla. Ciascuna delle ragazze legge la sua storia a voce alta, dopodiché ne discutiamo insieme. Tutte le storie saranno conservate religiosamente, così in futuro potremo leggerle ai nostri discendenti. Ognuna ha il suo nom de plume. Il mio è Rosamond Montmorency. Anche le altre ragazze se la cavano piuttosto bene. Ruby Gillis è molto sentimentale e si inventa un mucchio di scene d'amore. Il problema, come sai, è che quando è troppo, è troppo. Jane, al contrario, non ne racconta mai perché quando deve leggerla ad alta voce si sente stupida. I racconti di Jane sono pieni di logica e buonsenso. Diana invece ci mette troppi omicidi. Lei dice che finisce spesso che non sa cosa far fare ai personaggi e allora li uccide per liberarsene. Comunque sono quasi sempre io a proporre il tema dei racconti, ma non è per niente difficile perché ho milioni di idee che mi frullano continuamente in testa. A me quest'idea di inventare storie sembra la più sciocca che vi sia mai saltata in mente, borbottò Marilla. Vi riempite la testa di assurdità e sprecherete tempo prezioso che dovreste dedicare allo studio. Fa già abbastanza danni leggere racconti, figuriamoci scriverli. Ma Marilla, stiamo sempre attentissimi a metterci una morale, spiegò Anna. Insisto ogni volta su questo punto. I buoni vanno premiati e i cattivi puniti con la giusta durezza, perché di sicuro in questo modo il messaggio è edificante. Ciò che conta è la morale, lo dice sempre anche il pastore Alan. Ho letto una delle mie storie a lui e a sua moglie ed entrambi hanno riconosciuto che la morale era perfetta. Però ho avuto l'impressione che ridessero nei momenti sbagliati. Se la gente piange per le mie storie sono più contenta. Jane e Ruby singhiozzano quasi sempre a calde lacrime quando leggo i passaggi più commoventi. Diana ha scritto del club letterario a sua zia Josephine e lei si è fatta mandare qualcuna delle nostre storie. Allora abbiamo scelto le migliori quattro, le abbiamo copiate in bella e gliele abbiamo spedite. La signorina Barry ci ha risposto che le aveva lette tutte e che non si era mai divertita tanto in vita sua. Ci siamo un po' stupite perché i racconti erano davvero drammatici e morivano quasi tutti i protagonisti, però mi fa comunque piacere che li abbia apprezzati. È la prova che il nostro club lavora bene. La signora Allan dice che questo dovrebbe essere sempre il nostro obiettivo, qualsiasi cosa facciamo. Io mi sforzo, ci provo, ma quando mi sto divertendo spesso me ne dimentico. Quando sarò grande, spero di somigliare alla signora Allan. Secondo te c'è qualche speranza, Marilla? Direi proprio di no, non molte, fu l'incoraggiante risposta della donna. Di sicuro la signora Allan non era una bambina impulsiva e sbadata come te. No, ma non era nemmeno buona come adesso, ribatté seria Anna. Me lo ha detto lei, o meglio, mi ha detto che da piccola era dispettosa e si cacciava sempre in un mare di guai, il che mi ha proprio rincuorata. Secondo te, Marilla, sbaglio a sentirmi meglio quando scopro che anche il resto del mondo è stato disubbidiente o impertinente? La signora Linde dice di sì. Sostiene che la sconvolge sapere da qualcuno che si ricorda di essere stato cattivo, anche se era solo un bambino. Pensa che una volta ha sentito un pastore confessare che da ragazzo aveva rubato una crostata di fragole dalla dispensa della zia. Da quel momento la signora Linde ha perso il rispetto per lui. Io non l'avrei perso, anzi, avrei ritenuto molto nobile una confessione del genere, soprattutto per quei bambini che combinano pasticci e poi se ne pentono. Per loro sarebbe una vera consolazione sapere che da grandi potrebbero comunque diventare ministri della Chiesa. Sì, è questo che avrei pensato io, Marilla. Invece, quello che penso io in questo preciso istante, tagliò corto la donna, è che mi sembra anche ora che tu finisca di lavare i piatti. A furia di chiacchiere ci hai messo mezz'ora più del solito. Fammi il piacere, impara a lavorare prima e a chiacchierare poi.